My father's name was Elijah, and my name is Ragnar Pfizer. Lunedì 24 novembre, e quando tu senti la sigla questa qui, già sei che comincia una puntata nuova di Ragnar Pfizer fino alle 22:30. RagnarPfizer.net, se volete vedere, scaricare, ascoltare tutto quello che abbiamo fatto in questi anni, e da domani anche la puntata di oggi in podcast, come sempre. Ma bando alle ciance, c'è Duccio già pronto, va lui e poi ci riaggiorniamo dopo, magari guardiamo se succede qualcosa in settimana da segnalarvi. A dopo. Dilatadas, ataque Fábrica seri spiritus. Numes mi spasso perdidos. We'll be right back. intanto, mentre aspettiamo il nostro ospite, che ancora non vi riveliamo, o abbiamo già rivelato? L'abbiamo rivelato? No, ancora no. Ancora non l'abbiamo rivelato. Diciamo, diamo un indizio, perché roba sua la potete trovare nella puntata non ultima, cioè non quella di questo sabato, ma quella del 15/11/2014, quindi la penultima, in questo momento l'ultima, che trovate su mixcloud.com/ritmo radio show. E in tale puntata ci trovate anche il mix fatto da me. Vi avevamo già detto che una volta al mese siamo ospiti di Pizzo all'interno del Ritmo Radio Show, quindi trovate un mix Ragnar Paisa ogni mese. Potete andarvelo a scaricare appunto su mixcloud.com/ritmo radio show e comunque andarvi a iscrivere alla pagina facebook.com/ritmo radio show. Intanto vi presentiamo il nostro prossimo ospite con qualche suo pezzo, ve lo anticipiamo così. Thank you.

insomma, vi siete sentiti queste tracce direttamente da un progetto che si chiama Autogenesis. Non è proprio freschissimo freschissimo, perché è uscito una quindicina di giorni fa, fuori da un ragazzo che potremmo chiamare HDADD, oppure potremmo chiamare Marco, ma noi lo chiamiamo Uxo. Ciao Uxo, ci senti, come stai? Ciao ragazzi, tutto bene, grazie. Voi? Tutto a posto, tutto a posto. Oh, super bello. Senti, senti. Allora, è uscito una quindicina di giorni fa il tuo Autogenesis, chiaramente per forza rinchiuso fra tre parentesi. parlaci subito di, cioè, tanto la gente che ci ascolta, insomma, sa chi sei, quindi evitiamo i convenevoli e andiamo direttamente a parlare di Autogenesis. Spiegaci com'è nato, che cos'è, eccetera eccetera. Allora, Autogenesis fondamentalmente è il terzo episodio di una saga che è partita con un mondo MZK. Io penso che, allora, in verità le tracce che sentite in questo nuovo disco sono state concepite in un periodo ben definito, che sono praticamente gli ultimi 3 anni. Sia Grace che mondo MZK hanno avuto un processo bene o male parallelo. È molto spontaneo come cosa, il fatto che io tendo molto a dividere a livello concettuale le cose, e MZK aveva un certo tipo di vibrazione aggressiva, mentre Grace era più baleare, era un po' il suo controcanto. Era un po' il suo controcanto. Diciamo che Autogenesis è un po', musicalmente parlando, sta un po' in mezzo. Ok. Perché in verità è meno aggressivo tecnicamente di MZK ed è molto più cupo di Grace. Anche se i riferimenti musicali o culturali sono quelli. Soprattutto culturali sono quelli. Esatto. Io penso che dopo MZK penso che bene o male, dato cioè, c'è stato un vero e proprio impegno creativo dietro questa operazione, è come se un po' avessi trovato ciò che voglio fare, ecco, mettila così. Cioè, hai provato sì, cioè, quello che faccio mi piace, cioè una cosa ogni tanto nella vita. Io sono uno che butta veramente nel cesso le cose, nel senso che non cioè, la gente dice che sono iperprolifico, ma se vedesse cosa che butto via si finirebbe male, cioè, vedrebbe la crocifissione che c'è dietro, cioè, nel senso, e quelli che mi conoscevano in passato, che hanno visto che mi spingevano molto a tirar fuori le robe, sanno benissimo che in verità c'è un po' questa nuova propulsione a comunicare. Io penso che in questo momento storico sia più importante che comunicare ciò che si fa e dimostrare il proprio linguaggio contestualizzato in maniera cronologica nella storia, perché è giusto far capire cosa sta succedendo in quel momento, cosa stai pensando. È un po' come i writers, cioè, nel senso, te dici fai una release, ok, tutto quello che ti pare, se è prolifico o non sei prolifico, quanti dischi fai, ma se te devi fare un pezzo sul muro, cosa stai a pensare, quante ne fai una settimana? Ce l'hai là, lo fai. Certo, certamente. Cioè, la vedo un po' così, nel senso, quando ci sei, ovvio non tirare la prima, infatti uso pochissimo SoundCloud, per dire, perché preferisco dare una opera completa piuttosto che tirare fuori un pezzo alla volta. Preferisco che una persona si concentri su 40-50 minuti di musica e guardarsi un film o leggersi un bel libro, esattamente, è una metafora che secondo me calza benissimo, e perdersi un attimo in uno scenario di quel tipo. Infatti HDADD è un po' quel progetto là, che è un po' la malattia dei nostri tempi, quella della confusione, dell'ipertrofia dell'informazione che non ti porta a niente, cioè del troppo, ecco. Cioè, preferisco piuttosto dare un qualcosa che dia una direttiva e dica io volevo dirti questo, ecco. In questo poi ci sta anche la coerenza del fatto che comunque tu questo materiale lo pubblichi sulla tua etichetta, sul tuo movimento, che rende anche questi discorsi che tu fai ancora più credibili per il fatto che tu comunque la comunicazione la vedi a 360 gradi, nel senso che la curi in tutto e per tutto dall'A alla Z, no? Sì, assolutamente, è così, cioè nel senso a me, come chi mi conosce lo sa, io sono apertissima alle collaborazioni, allo stesso tempo c'è anche una, secondo me ci deve essere una responsabilizzazione sull'output, perché voglio dire, c'è un discorso un po' di pigrizia, il fatto che io non mando molte mail in giro con i demo, soprattutto non ho demo, cioè nel senso il materiale che io tiro in giro è finito, per cui c'è un concept dietro, certo. Ed è un po' un problema, perché comunque con certe strutture può essere problematico, perché se te hai studiato una struttura narrativa attraverso i pezzi, questa cosa qua può essere veramente voglio dire velenosa, perché non parli di una persona o un producer che man mano si fa accettare le tracce da un qualcun altro. Io fondamentalmente cioè so dove è che arrivo, posso avere un'abbondanza di tracce, ma bene o male quello che voglio è quello, e soprattutto sto attento e non ci sono fillers, io non uso fillers, cioè tutti i pezzi hanno un significato. Certo. Ed è una cosa che secondo me in un'epoca come questa è fondamentale, cioè nel senso, ma ripeto, il concetto c'è stato una sorta di abbandono del progetto Uxo, che in verità a livello proprio tecnico si basa su altre questioni, perché là nel progetto Uxo si lavora sul sampling, su questo invece è proprio una forma di musica abbastanza libera, seppur basata su strumenti elettronici, diciamo, più compositiva, esatto. Uxo invece si basa sull'editing, sul campione. Prima o poi lo riprenderò, cioè è un progetto divertentissimo e molto più ironico di questo. HDADD è un progetto in qualche modo molto politico, nel senso che ci sono dei contenuti molto forti, forse, cioè, non voglio usare una parola forte, ma sono molto autoriali, cioè è come se stessi cercando di creare delle vere e proprie soundtrack o comunque dei libri sonori, sono degli scenari. I primi due dischi non erano, se devo essere onesto, cioè Ancient Future, nonostante sia uno dei dischi che probabilmente piace di più alla gente, e invece era lo sfortunatissimo come il secondo, che cioè lasciava un po' tutti spiazzati perché non c'è il ritmo, secondo me sono dei dischi molto belli, però non hanno l'intensità degli ultimi tre. Gli ultimi tre hanno delle caratteristiche molto spinte che sto spingendo sempre di più oltretutto, cioè, e in qualche modo sono universali, perché se uno mi viene a dire cos'è techno, cos'è funk, non è niente, perché è musica, è fatta con strumenti elettronici, almeno come la vedo io, non saprei come dire, ci sono, vabbè, c'è la costante della tecnica dub dietro. Beh, certo. Perché è molto forte, ma quella fa parte di me e non ci posso fare niente. Sono cresciuto copiando certi produttori giamaicani. In verità c'è una forma di autocoscienza verso un certo tipo di musica italiana, diciamo. Certo. Se devo essere sincero, ho iniziato a apprezzare un po' le mie origini. Certo, assolutamente. E comunque, per avere una buona panoramica su quello che è il tuo lavoro e il lavoro della tua etichetta, consigliamo a tutti di andare a dare un occhio e mettere due orecchi su queenspetria.bandcamp.com. Tu hai anche dei siti che si occupano più a livello di immagini, non so se ci vuoi ricordare i link anche dei vari blogspot e dei Tumblr. Ah, beh, sì, allora c'è c'è queenspetria.youtube.com, che vabbè è praticamente il canale dove si possono vedere visual che poi generalmente curi tu in prima persona. Sì, assolutamente. Sì, tutta la parte di comunicazione, video, press, grafica, me ne occupo io in prima persona. Io comunque ora, vabbè, chiaramente Autogenesis è la cosa più fresca, la cosa fra la triade, diciamo, il progetto al quale tieni di più. Io personalmente ti dico, cioè non ne abbiamo parlato, ti dico che Grace l'ho apprezzato in particolare fra i tre, Grace. Sono molto contento, l'hanno apprezzato in tanti, perché in verità è stata una sfida mia, perché in generale è molto facile secondo me finire in registri molto seri e oscuri, in qualche modo ti tende a intellettualizzare, cioè è un po' in qualche modo una cosa comoda per un artista. È che artista metti la tra virgolette perché non mi garba tantissimo questa parola. Ma intendo dire, una persona che si piglia una responsabilità comunicativa se la butta subito sul serio, sul serioso, in verità se la gioca un po' in maniera comoda. Grace, il fatto di lodare o essere, cioè di giocare su dei registri più rilassati, anche se poi i pezzi tesi ci sono. Comunque anche Grace è uscito, Grace è uscito anche proprio a puntino maggio 2014, cioè quindi proprio prima dell'estate le sonorità ci stavano tutte. Quella ti posso dire non è una cosa voluta, ma è stato più un impulso. Cioè, se ti devo dire la verità, i dischi quando escono sono là che stanno stagnando per un po'. Cioè, nel senso che non c'è una vera e propria, vengo dal DIY, fondamentalmente certo. A un certo punto dici vabbè, ma cos'è che sto aspettando? Questo è il mio output. È un po' quello che ti dicevo prima sui pezzi, sui muri. Cioè deve uscire, amen, via, cioè tiriamolo fuori, cioè, abbiamo il materiale. È quello che sto notando, bene o male, a livello mercantile musicale, che secondo me sta diminuendo veramente la musica tantissimo, è il fatto che attorno si creano dei grandi meccanismi di marketing, dei grandi boati ad anticipare il disco, ma che poi quei dischi là, seppur validi, vengono un po' rovinati dal pettegolezzo che c'è prima, dall'aspettativa che viene creata. Sì, perché non vuol dire niente, certo. perché voglio dire, ci sono dei grandi meccanismi di marketing, ci sono persone che lo fanno di mestiere, per carità, massimo rispetto, però vabbè, poi però cioè chi c'ha l'orecchio giusto dopo se viene creata un'aspettativa alta e poi dopo la delusione è ancora più forte se la roba è scarsa. Quindi se siete curiosi in ogni caso di tutti questi discorsi messi in musica, ve ne potete andare su queenspectra.bandcamp.com, giusto? Che è la tua home of Space Base and Illegal Cosmic Tapes. E niente. No, lasciamoci con quello che a nostro parere è il pezzo, chiaramente il gusto è personale, più interessante e bello nel complesso del disco, quello che ci ha colpito di più, che si chiama Life Come From The Water. Grazie Uxo di essere stato con noi ci gustiamo questo pezzo, che voi ve lo gustate con noi, e ci sentiamo tra poco. Ciao Marco. Right about now, entertain by the song called Creation Discotheque. Yes, brother, brother, pull your legs now. Hear that? Yeah, yeah. Now I come to the part two songs to the man like every come for bounce and go down. Well, we're renowned, you have to get the crown. Beat, rock, Sega, watch it. Water, new name, same nigga, F digger. Steady spitting phlegm on them who can't figure. Trust me, ain't the look, Sister Lucci. Believe me, keep them fondling they coochie. Every time they see me, I sip any, so I piss any. With the coke back and lemon twist, ambidextrous. When it comes to ice on my wrist, diamonds, I like them. Rings platinum, cousin been had them. So bring your whole crew style, be no afraid of them. Hug leggy at cha, we no one, no not them. Bring your whole crew style, be no afraid of them. Hug leggy at cha, we no one, no not them. Hear me, Fred? Yeah. Them, boy, y'all. Them come tell you ready, y'all, they man. Every DP track and be man. Three of it together. E molto velocemente diciamo che il 28 prossimo. Ecco, stavo guardando perché non mi ricordavo se era venerdì o sabato. Benedetto Ferrara intanto ride. Però è così. Il venerdì prossimo, ovvero il 28, al CPA di Firenze Sud, Bampai Crew ospita Aishen Sound, amici di Perugia, serata reggae, dancehall. E noi vi lasciamo così, rimanete con noi fino alla mezza, dopo il TG e poi Benedetto Ferrara e le Butterfly fantasticissime, bellissime. Climb to the sky, but you have to know there's only one eye and eye. Enough man above sense, see and get high. Enough girls see me drop dead and won't cry. You know, so daddy, if you fly, God damn.